l'affluenza degli elettori ai seggi, che è un dato che in generale non ci lascia soddisfatti, ma va detto che temevamo anche peggio. Negli ultimi 4 anni l'affluenza alle elezioni regionali si è attestata su dati più bassi. In Emilia-Romagna c'è stata una campagna elettorale oggettivamente meno intensa di quella della Liguria e mancano alcune sezioni elettorali ancora. Il dato è leggermente superiore, quindi ci sarà del lavoro da fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni per riavvicinare gli elettori al voto. Questo è un impegno che guarda a tutte le forze politiche, richiede l'impegno di ciascuna forza politica. Dall'altra parte, i primi exit poll e i primi instant poll, se dovessero essere confermati dalle proiezioni prima e poi dal dato definitivo delle urne, ci consegnano un ampio margine e fotografano una forbice ampia, che forse è anche uno dei motivi, come dicevo prima, che non ha spinto una campagna elettorale, un'affluenza che non è stata sopra il 50%.